La campagna Io accolgo è una campagna che tra l'altro è stata lanciata a Roma, in Piazza di Spagna. È una campagna che è stata promossa dal Tavolo Asilo e da Europa Asilo e da quindi un gruppo di oltre 42 associazioni e organizzazioni sociali nazionali e internazionali. E abbiamo scelto di lanciarla contemporaneamente nella stessa giornata anche a Bologna e ha già ricevuto tantissime adesioni anche di realtà del territorio, tante piccole associazioni, perché l'obiettivo di questa campagna vuole essere proprio quello di provare a mettere a sistema tutte le esperienze, tutte le iniziative, tutti gli interventi di accoglienza che si fanno sul nostro territorio, per provare a tutelare il sistema di accoglienza che siamo riusciti a costruire in questi anni, grazie all'impegno degli operatori, delle operatrici, grazie all'impegno delle organizzazioni del terzo settore e anche delle istituzioni. Diciamo che gli obiettivi della campagna sono tanti e naturalmente sono tutti da mettere in pratica nei prossimi mesi. Sicuramente l'impegno che si prendono i soggetti promotori, quando parlo di soggetti promotori parlo dell'ARCI, della CGL, della UIL, di Welcome Refugees, Europa Asilo e tantissime altre organizzazioni che anche a livello locale sono impegnati sul tema dell'accoglienza. Dicevo, uno degli obiettivi sicuramente è quello di provare a organizzare e promuovere delle iniziative di informazione, di sensibilizzazione, ma soprattutto di mobilitazione sul tema dei diritti, perché è sul tema dei diritti non solo dei migranti, ma anche dei diritti di tutte e tutti, di coloro che vivono in situazioni di disagio, per promuovere una rete che sia una rete innanzitutto di solidarietà che nasce dal basso e che provi anche, come dire, a intervenire per provare a costruire insieme anche agli enti pubblici un sistema di accoglienza che rispetti la dignità innanzitutto dei migranti che vivono nel nostro territorio, ma anche di tutti i lavoratori e le lavoratrici che in questi anni hanno accompagnato i migranti in percorsi di autonomia e di integrazione che sono fondamentali. Io credo che l'esperienza che dell'Hub, quello che è successo, quella mobilitazione che è nata dal basso e che ha coinvolto tante associazioni, che ha coinvolto tante realtà, che ha coinvolto i sindacati, sia sicuramente un buon punto di partenza e dimostra soprattutto il fatto che Bologna è una città accogliente, una città che resiste, che vuole contrastare le politiche di questo governo e vuole soprattutto che vengano rispettati i diritti e le tutele di tutte e tutti. Quindi diciamo che l'evento scatenante è stato proprio questo qua, quello dell'Hub. Sì, diciamo che la campagna sicuramente, come dire, ha una storia un po' più lunga, però ci sembrava giusto lanciarla proprio a pochi giorni da quello che è successo all'Hub, proprio perché per noi quello, come dire, è un evento sicuramente simbolico e che ha mobilitato davvero non solo le associazioni ma anche tanti cittadini, l'associazione anche delle famiglie accoglienti, tante realtà che hanno dato la loro disponibilità e l'hanno data in questa occasione ma anche in tante altre, promuovendo iniziative, promuovendo corsi di lingua, promuovendo interventi di accoglienza su tanti fronti. C'è anche un manifesto? C'è un manifesto che prevede tanti punti, alcuni sono quelli che comunque ho già accennato, per cui la costruzione di reti di prossimità, la costruzione di percorsi di mobilitazione che provino a coinvolgere enti pubblici e enti privati per costruire come dire un'alternativa alle conseguenze devastanti del decreto Salvini, che ha appunto sulla vita soprattutto dei migranti. È una campagna che naturalmente volge lo sguardo anche al Mediterraneo, a quello che sta accadendo, a tutti i morti in mare, tutti coloro che vengono respinti in Libia, e che chiede all'Italia ma anche all'Europa di promuovere dei canali di ingresso regolari, che chiede di avere i porti aperti per tutti coloro che hanno diritto di arrivare nel nostro paese e che chiede soprattutto degli investimenti su politiche migratorie che provino a rispettare il diritto d'asilo e il diritto di essere protetti dei migranti invece che investire sull'esternalizzazione delle frontiere. Qual è il simbolo della campagna? Il simbolo della campagna sono le coperte termiche, perché la coperta rappresenta il primo segno di accoglienza, il primo segno di protezione. Le abbiamo visto tante volte, è la coperta che avvolge i migranti che arrivano, riescono a arrivare, purtroppo sono sempre meno che riescono a arrivare sul nostro territorio, e quindi per la campagna rappresenta proprio, come dire, un messaggio che si vuole dare a tutti: noi non vi lasciamo soli, noi proveremo a mettere in campo tutte le nostre forze per proteggervi e per tutelarvi. Sono previste altre iniziative? Sicuramente adesso noi partiremo con una serie di iniziative, soprattutto perché è possibile aderire a questo manifesto, e il nostro primo obiettivo è quello di far conoscere questo manifesto e fare in modo tale che venga condiviso e che arrivino tante adesioni da parte di cittadini, di gruppi, di movimenti. presenti. Quindi sicuramente anche in vista del 20 giugno saremo in giro per la città. Il 20 giugno saremo tra l'altro qui in Montagnola, dove ci sarà una giornata dedicata al, appunto, dedicata proprio al tema dei rifugiati, con tante iniziative, con un concerto. E quindi questa, diciamo, è la nostra, il nostro primo passo, ma chiaramente è tutto un lavoro che va costruito. E il fatto di esserci già incontrati, il fatto di aver messo insieme tante realtà diverse, secondo me è un primo segnale molto molto positivo. Dove si possono reperire tutte le informazioni di Io Accolgo? Allora, c'è un sito www.ioaccolgo.it dove è possibile aderire all'appello, dove si potranno trovare tutte le esperienze diffuse sul territorio, come per esempio quelle delle famiglie accoglienti e altre occasioni per poter partecipare attivamente e poter costruire delle iniziative dal basso. L'invito è quello di visitare il sito e di vedere un po' quali sono tutte le opportunità e tutte le possibilità di costruire delle reti e di poter, come dire, dire la propria e far vedere che esiste un'Italia che resiste e che è un'Italia solidale e che lavora e continua a lavorare per l'accoglienza, per un'accoglienza degna.